Radio 24. Libera la voglia di fare. Cronache da un paese migliore di Alessio Maurizi e con Carlo Gabardini. Trump smonta l'intesa con l'Iran, protesta l'Unione Europea, il Corriere della Sera. Il candidato premier resto io, Renzi al forum di Repubblica, no alle primarie di coalizione, se salta il PD salta il sistema, Repubblica. Gli studenti protestano, non vogliono lavorare, organizzati 70 cortei in Italia, questo è il titolo di Libero che per me oggi è un super titolo, anche se non condivido questa cosa qua, però non è male, non vogliono lavorare. Il Fatto Quotidiano apre con pure il fascistellum è scritto coi piedi, ma la solita Boldrini sbianchetta l'errore. E questi sono alcuni dei principali titoli sui giornali di oggi. Buongiorno da Alessio Maurizi. E buongiorno da Carlo Gabardini. Non è male, quella di Libero. Non gli diamo il super titolo perché siamo già sulla sigla, quindi non possiamo siglarlo. Però, insomma. Cioè, gliel'abbiamo dato, ma non l'abbiamo sottolineato con la sigla. Questo è, in realtà. E poi ancora, vediamo se. Beh, c'è molto Trump. In realtà, io ho letto le altre, ma insomma, moltissimi. Trump all'Iran, i missili violano l'intesa nucleare. E invece ancora violano lo stesso titolo anche per Avvenire. Trump mina alla base l'accordo con l'Iran. Tra poco vediamo di che si tratta. Però ancora un titolo invece sulla anche questo potrebbe essere un altro super titolo. Il Manifesto sulla giornata di ieri, manifestazioni in 70 città di studenti che hanno protestato contro l'alternanza scuola-lavoro, contro alcune distorsioni, 70 in condotta. Buono. Non ottimo, però buono. Anche perché si occupa del numero delle piazze, mentre qualcuno ha detto sì, le piazze erano tante, ma gli studenti erano tanti, ma non tantissimi in piazza. E poi il giornale ha un richiamo all'ambito delle buone notizie, al nostro mondo qua, perché dice buone notizie fiscali, è il titolo principale in prima pagina, nuovi sconti sulle multe, il governo approva un'altra rottamazione per 400.000 cartelle, ma per le imprese tassa occulta da 10.000 euro. Allora, la rottamazione, è una buona notizia rottamare le multe. È una buona notizia se hai preso la multa, però se hai preso la multa sarebbe meglio che la pagassi piuttosto che attendere una rottamazione. Ma può succedere che uno si dimentica una cosa, arriva le sanzioni. Ti do anch'io un pezzo di buona notizia, visto che ci stiamo occupando delle prime pagine. Repubblica via il termine razza dalla Costituzione, è una proposta di un genetista che dice non esiste nel DNA, quindi non esistono le razze umane, siamo tutti esseri umani uguali al 99,9% del DNA, quindi gli scienziati italiani che sono un gruppo chiedono, è stata lanciata ufficialmente dal Collegio Ghislieri di Pavia con il sostegno di Fondazione Umberto Veronesi e Merck e quindi chiedono di togliere l'espressione razza. Mi sembra una buona notizia. Io ho anche questi due titoli qua. La Verità, ad Alitalia 300 milioni, ai disabili niente. Ecco le priorità del governo. Vabbè, come sempre, quando si mettono a confronto tagli di spesa con voci di spesa, può venire fuori di tutto. Però c'è un rimpolpamento della dote per l'Italia, altri 300 milioni per andare avanti. E questo mette in luce la verità. E invece il giorno sì. Stress da movida risarciti. Troppi rumori di notte a Brescia. Per la prima volta un giudice condanna il comune a pagare 37.800 euro a una coppia per danni biologici e patrimoniali. Però sentenza che potrebbe fare scuola, attenzione. Fra scuola, perché secondo me saremmo tutti lì con il telefonino a registrare se sentiamo un piccolo rumore, uno dice vabbè, magari non 37.000 ma un 5.000 euro me li faccio dare. Scusami, chiudo la notizia che davo prima, perché giustamente tu mi chiedevi chi è che lo dice, e è il genetista e accademico dei Lincei Carlo Alberto Redi, e sottolineo questa cosa perché lo dice in un modo bello, riassume così: la razza è una fake news. Ecco, benissimo. Allora, andiamo però ancora una volta on the road con una rassegna stampa. Torna Andrea Ferro, cerchiamo di capire che cosa si aspettano i lettori, che cosa vorrebbero trovare i lettori sui giornali di oggi. Vediamo se riusciamo a accontentarli. Buongiorno Alessio, buongiorno Carlo, ecco un'altra puntata della nostra rassegna stampa on the road. Ci sono notizie delle quali non sente mai parlare, che invece meriterebbero maggiore attenzione secondo lei? No, perché non c'è più un pensiero in questi giornali qui. E il pensiero cosa intende? Il pensiero di un giornalista che esprime la sua opinione. Notizia valanga e basta. Sono della stessa idea. Ecco, ma c'è un argomento, Rosatellum, Battisti, c'è un argomento che in qualche modo ha richiamato la sua attenzione in queste ultime ore? Catalogna. Perché? Perché penso che sia un pasticcio. Io credo più nel federalismo che nell'indipendentismo, scusi. Più che leggere i quotidiani, guardo molto online, quindi diversifico molto le notizie e, dico la verità, controllo anche la notizia da quale quotidiano mi proviene online. Quindi se è un quotidiano di destra o di sinistra, cerco poi di mischiare le notizie, perché difficilmente un giornalista riesce a essere imparziale. Esattamente. Rosatellum? Ma neanche, perché ho smesso di pensare a sta gente che veramente... E allora chi pensa? Ma penso che non andrò neanche a votare, perché comunque nessuno di questa gente mi rappresenta. Questa storia di questo signore che è andato a morire in Svizzera è l'unica notizia a cui ho dato importanza ieri. La chiamerei soltanto una cosa: no, suicidio assistito, morte assistita. Battisti? Battisti non ne parlo, è meglio di no. Oh, queste erano un po' le aspettative dei lettori. Ho capito bene che qualcuno chiede più opinioni, cioè meno fatti e più opinioni. Sì, di inquadrare le notizie. Hai detto no, troppe notizie a valanga, così abbiamo bisogno che qualcuno ce le spieghi anche un po'. Ho la sensazione che ci siano più opinioni che notizie in giro, ma comunque. Allora, però chiedono di Catalogna, però di Catalogna non si parla già più. Non si parla già più, basta, ma perché ieri sera perché si sta attendendo sulla direi. 7, Zoro, Propaganda hanno fatto un bel mini reportage sulla Catalogna. Si è visto anche gente che diceva che non gliene fregava assolutamente niente dell'indipendenza per la prima volta in televisione, perché però sembrava che fossero tutti indipendenti e dopo sono scesi quelli non indipendentisti. Invece sul Rosatellum c'era un'altra. No, la dedico all'ascoltatore che dice della questione del Rosatellum al lettore. In realtà non ci sono titoli, ci sono un po' di cose, insomma, ancora strascichi sulle proteste. Noi abbiamo il gioco di questa settimana, perché dopo che Di Battista è andato in piazza a protestare contro il Rosatellum, ma ha sostanzialmente sbagliato piazza. Parco, era lì, cioè era gente che protestava anche loro contro il Rosatellum, ma non erano i suoi, non erano i grillini. Allora questa cosa fa sempre molto ridere quando capita così di sbagliare situazione completamente. Noi è fantoziana quasi come scena, che tu entri, parli, pensi che stai parlando con i dipendenti, invece stai parlando con i datori di lavoro di solito. Esatto. il contrario. Allora all'800 24 00 24 vi chiediamo, quella volta che avete completamente cannato la situazione, ma aggiungiamo un pezzo del gioco, perché è anche la figura, diciamo, che tutti i giornali hanno parlato del padre di Battista, dello scontro che c'è stato insieme a Pappalardo. E quindi io direi, diteci anche le volte che un vostro genitore, va bene il papà, va bene anche la mamma, va bene anche il nonno, vi ha fatto fare una figuraccia. Perché quelle ci sembrano storie sempre belle e divertenti, che poi in realtà perdoniamo i nostri genitori. È la storia più divertente che ci convincerà di più. Si porta a casa i biglietti della mostra Egitto allo splendido MUDEC di Milano. Volevo dire anch'io una cosa sulla questione del Rosatellum, perché come ha detto l'ascoltatore nella nostra intervista, lo capisco, perché non ne possiamo più, come ho scritto sul mio Facebook, non ne possiamo più di leggere e studiare approfonditamente sistemi elettorali e poi il giorno dopo scoprire che comunque non sono stati votati, oppure tutti dicono che sono anti costituzionali, oppure fanno schifo, oppure siamo stufi, non è che possiamo ogni giorno, non è che possiamo studiare tutti i metodi del mondo per eleggere, anche perché alla fin fine si eleggono sempre le stesse persone. Una cosa interessante è anche questa, che l'ha votato un sacco di gente in Parlamento, perché di voti ne ha avuti, però non c'è nessuno che è contento. Berlusconi non dice niente, la Salvini nemmeno lui, il PD vabbè è diviso, però quello diciamo è la norma. Addirittura Parisi e Prodi dicono: i prodiani e la festa del PD è un giorno di lutto. Di lutto, cioè, esatto, così festeggiano, esatto, il Rosatellum. Sì, sui giornali di oggi diverse anche sia Paolo Mieli sia Cacciari, che dicono è una legge elettorale vergognosa, perché è fatta solamente per impedire ai 5 Stelle di andare al governo. Oggi però con noi, dopo il GR delle 8, sarà il ministro dell'istruzione Fedeli, Valeria Fedeli, perché dopo queste proteste, insomma, degli studenti che secondo Libero non vogliono lavorare, secondo il manifesto sono sfruttati perché li fanno lavorare, vediamo cosa scrive il manifesto: Fico, McDonald's, Zara e altre 100.000 quando il personale è a costo zero. Insomma, cercheremo di capire se c'è qualche distorsione, sì, qualcosa, sì, che non va, o insomma se si può migliorare l'alternanza scuola-lavoro. E con il ministro Fedeli dopo il GR delle 8. Sarebbe bello che questo momento fosse l'alternanza scuola-lavoro, un po' come faccio un paragone azzardato, un po' come il militare era una volta, un momento di unificazione nazionale, come è stato poi il servizio civile, certo, dove tu davi qualcosa alla nazione, ma la nazione ti valorizzava. Come il volontariato, come sì, in questo caso essendo anche l'alternanza scuola-lavoro, bisogna anche ricordarsi che non è semplicemente lo studente che deve dare delle cose al proprio paese, ma deve anche, certo, ricevere il pezzo di istruzione mancante, insomma, se no è un altro tipo di, se no appunto è un servizio civile, invece in questo caso dovrebbe anche insegnare a loro delle cose. Giusto, bisogna ricordarlo. Però è giusto, perché nei giorni feriali gli studenti vanno in piazza, e oggi che è un semifestivo, essendo sabato, noi sentiamo il ministro. Mi sembra molto giusto. Traffico. Si può fare. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Nuove sanzioni all'Iran, ma non cancella l'accordo sul nucleare, così scrive la stampa. In realtà non ci sono direttamente nuove sanzioni all'Iran, ma semplicemente la Casa Bianca, l'amministrazione Trump, ieri ha deciso di non certificare, come avviene periodicamente, l'accordo sul nucleare raggiunto con l'Iran. Questo prevede poi che sarà il Congresso a decidere successivamente se ci saranno queste sanzioni. Ma insomma, la botta c'è stata, anche se, come ricorda sempre la stampa, l'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica ha certificato che l'Iran in realtà sta rispettando questo accordo, ma secondo Trump l'Iran ha commesso delle violazioni multiple, così sulla stampa, ma insomma anche il Corriere evidenzia come la presa di posizione di Trump non trovi tutti d'accordo, anzi sono tutti contrari, perché gli altri paesi che nel 2015, seguendo Obama, avevano firmato questo accordo, Cina, Russia, Francia, Gran Bretagna e Germania, sono tutti al momento, compresa l'alta rappresentante per la politica europea Federica Mogherini, tutti critici nei confronti dello strappo di Trump, anche la Russia, soprattutto forse la Russia. Questo per quanto riguarda la questione Trump. Qualche piccolo commento lo vogliamo fare anche sulla questione alternanza scuola-lavoro, che approfondiremo con la ministra Fedeli. Due commenti velocissimi di segno opposto, uno di Walter Passerini sulla stampa, che cerca di salvare l'alternanza scuola-lavoro, dice: prima di buttare il bambino con l'acqua sporca è utile capire meglio che cos'è, formulando una domanda: perché in Italia la disoccupazione giovanile è al 35%, la dispersione scolastica al 20% e in Germania i ragazzi disoccupati sono solo il 7%. La risposta sta proprio nell'alternanza scuola lavoro, però prosegue Passerini, hanno ragione gli studenti a denunciarne gli abusi, che vanno stroncati ma che non costituiscono una giustificazione per buttare a mare il sistema dell'alternanza. Anche il Corriere si occupa molto della questione e dice è un'innovazione giusta che viene dalla buona scuola, però dietro la legge tuttavia non c'era alcun piano di attuazione concreta per renderla davvero efficace, quindi le intenzioni sono giuste, forse la legge va un po' tarata, serve un tempo di assestamento. Ne parliamo con il ministro Valeria Fedeli alle 8:15, 8:20 circa giù di lì, e cari ascoltatori, oggi vi chiediamo anche di essere su questo argomento contro l'ori dei fatti. Noi il fact checking lo facciamo così: se siete insegnanti, se siete studenti o se siete genitori di studenti che stanno facendo l'alternanza, o se lavorate se ne sapete in un'impresa che sta ospitando studenti, anche sarebbe questo, molto interessante. I nostri ascoltatori magari ci stanno dentro, chiamate, perché questa è la vostra puntata, raccontateci il vostro punto di vista, come stanno andando questi progetti di alternanza scuola-lavoro. 800 24 00 24. Qualche veloce buona notizia. Certo che ci sono delle buone notizie. Alcune. Intanto Lady Gaga, che aveva interrotto il proprio tour, buona notizia, Lady Gaga. Mi sento male. Era malata e invece ha ripreso il tour. Io invece ho questo sul Corriere: Amazon caccia un boss per molestie sessuali, altra accusa a Weinstein. Ieri il capo degli Amazon Studios è stato sospeso dopo accuse di molestie da parte di una produttrice. Poi c'è anche il pentimento di Jane Fonda. Lo sapevo, ma ho taciuto a proposito di Weinstein, perché questo era un po' un segretino di Pulcinella. E invece una buona notizia sulla stampa di Torino: a Torino l'officina per giovani meccanici diversamente abili, si chiama Meccanicot. Il logo di questa iniziativa è bellissimo, è made in Cottolengo ed è una chiave inglese antropomorfizzata con le manine e il cappellino da prete ottocentesco che identifica il santo. Dopo questa cosa di Chicco Cotto, che era un progetto che dava lavoro ai ragazzi autistici, ora la cooperativa Cottolengo e la scuola Cottolengo hanno dato vita a Meccanicotto, un'officina training center perfettamente attrezzata che promette di formare meccanici diversamente abili, ma abilissimi nel lavorare in team alla manutenzione delle auto. Adesso è il momento della rivolta delle belle idee dei comuni virtuosi. Sentiamo questa settimana Marco Boschini, che cosa ci va a raccontare? Alessio, ciao Carlo. Il comune ribelle di questa settimana è Novellara, 13.000 abitanti in provincia di Reggio Emilia. Qui l'amministrazione ha attivato un progetto che unisce la natura alla tecnologia, la tecnologia utilizzata a scopi positivi. Praticamente sono state attaccate una sessantina di targhette su altrettante piante nel parco pubblico intitolato La figura di Augusto D'Aoglio, dove con la lettura del QR code i cittadini possono conoscere, vedere, visualizzare sul proprio smartphone tutte le informazioni di quella singola pianta e ascoltare anche un racconto rispetto appunto alla tipologia di pianta e del perché lì. Un progetto semplice ma al tempo stesso rivoluzionario, perché avvicina la conoscenza e quindi il rispetto del territorio che ci circonda. E questo è quello che accade a Novellara, Reggio Emilia, dove i cittadini sanno tutto delle piante etichettate in questo modo, taggate. Molto bello, Marco Boschini. Bello, sì. Abbiamo Silvano che ci chiama da Varese. Buongiorno, benvenuto. Buongiorno a voi. Buongiorno. Congedarci prima del GR. Vai Silvano, su cosa volevi intervenire? Una cosa molto veloce: voi cercavate quando l'avete cannata di brutto. Sì, sì. Come Di Battista in piazza. Ecco, sì. È una cosa un po' particolare, nel senso che io facevo il Don Giovanni e mi danno l'indirizzo di questo appuntamento. Io mi presento e sul navigatore avevo impostato una via e un numero. Nella trascrizione avevo sbagliato e avevo invertito gli ultimi due numeri dell'appartamento. Mi presento e trovo una signora la quale mi ospita tranquilla, contentissima, eccetera. Quando al momento tutto è andato benissimo, quando al momento di pagare le chiedo il compenso. Lei mi dice, ma tu non facevi il Don Giovanni, facevi il gigolò? Chiamalo se vuoi. Ma, no, è che noi aspetta, non capivamo, aspetta, pensavamo chiudiamo, Don Giovanni di Mozart. Chiudiamo perché abbiamo pochi secondi. E quindi avevi sbagliato. Esattamente. Avevo, stop. Mi sono accorto che la signora mi dice, è rimasta allibita e mi dice: ma io non ho invitato nessuno, non ho fatto nessun appuntamento. Meraviglioso, Silvano, grazie. Dobbiamo chiudere, GR, non ci ho capito quasi nulla. Il segnale orario vi è offerto da Stufe e Caminetti, la Nordica Extra Flame, il puro calore made in Italy che riscalda la vita. Pantera di Infracom è il miglior ERP italiano? Mettici alla prova! Pantera.it col TH. Vi presenta. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Momento di parlare con il ministro dell'istruzione Valeria Fedeli. Buongiorno, benvenuta. Buongiorno a voi. Buongiorno. Grazie per essere con noi. Allora, ieri c'è stata una serie di scioperi, lo sappiamo, manifestazioni in tante città italiane degli studenti per alcune questioni, in particolare contro la questione dell'alternanza scuola-lavoro. Allora, i titoli dei giornali vanno da gli studenti protestano, non vogliono lavorare. Alcuni giornali scelgono questa strada, altri dicono buona idea ma male applicata, eccetera, eccetera. Allora, faccio, ministro, solo un piccolissimo preambolo per gli ascoltatori. 200 ore nei licei, 400 ore nelle scuole tecniche professionali negli ultimi tre anni da fare, è un requisito questo per ottenere il diploma. Un recente sondaggio della rete degli studenti proprio alla vigilia di questo sciopero dice che la metà sostanzialmente degli studenti è soddisfatta alla fine di questo percorso, o durante questo percorso, però ci sono delle criticità anche grosse che stanno emergendo sul fronte. Soprattutto le critiche sono sostanzialmente tre: forme di lavoro gratis con eccessi, volantinaggio, pulizia di gabinetti, piuttosto che staccare biglietti al museo il 24 dicembre, esatto, oppure insomma scartavetrare navi a Taranto, insomma cose di questo genere. Le scuole che lamentano di essere in difficoltà perché non riescono a coordinare da sole questi progetti, non è semplice, vai a trovare un posto dove far fare un'alternanza scuola-lavoro a un meccanografico, per esempio, che ne so, la butto lì. E poi le aziende, che anche loro non sanno, non si reperiscono, non è facile reperirle, le aziende stesse che non sanno spesso cosa e come fare a questi ragazzi. Aggiungo solo una cosa sempre di questa ricerca, che la maggior parte dei ragazzi vorrebbe poter scegliere dove andare a svolgere le proprie 200 o 400 ore. Detto tutto questo, ministro, io le chiedo, quali di queste critiche che stanno emergendo secondo lei sono fondate? E su cosa pensate o non pensate di poter intervenire? Allora, intanto la prima cosa importante è che la maggioranza dei ragazzi che sono scesi in piazza ieri hanno detto: facciamo meglio l'alternanza scuola-lavoro. Secondo me questo è un punto vero. Cioè, la cosa importante è riconoscere che è fondamentale questa nuova innovazione didattica che abbiamo messo all'interno della scuola, perché significa superare una tradizionale separazione tra i saperi teorici e i saperi che derivano, quindi proprio nuovi strumenti di conoscenza trasversali che derivano dall'esperienza di alternanza scuola-lavoro. Questo secondo me è un punto fermo. Poi ci sono delle criticità. La prima criticità non è il numero delle ore, ma è la qualità del progetto formativo. E qui c'è un lavoro che dobbiamo implementare e continuare a fare per mettere e diciamo rendere responsabili chi accoglie i ragazzi, che è un percorso di formazione, non di sostituzione di lavoro che loro devono fare. Certo, formazione, questo va ricordato, no, soprattutto. No, ma questo è fondamentale, sì. Perché alternanza scuola-lavoro non è apprendistato, è didattica, è diciamo contenuti formativi nuovi. E che questo va detto alle aziende, giusto? No, guardi, questo va detto alle aziende, se mi posso permettere, va detto anche a chi nella scuola deve portare i ragazzi e costruire con o le aziende o il museo, certo, o il comune, o l'ASL, la qualità del progetto formativo. Allora, qual è il lavoro che stiamo facendo da qualche mese? Che è quello esattamente di sostenere di più dentro la scuola i tutor scolastici, quindi anche i docenti, che devono avere una formazione adeguata a sostenere questa innovazione didattica. In che modo però, Ministro, state cercando di sostenere di più? Esattamente, diciamo, implementando un po' di più le linee guida che erano state date all'indomani della legge 107, perché l'acquisizione di problem solving, capacità di progettare, capacità di lavoro in gruppo, cioè quello che dovresti trovare come nuovi skills di apprendimento trasversale andando nei diversi luoghi dove c'è già il lavoro, è un elemento anche di conoscenza e di competenza che dobbiamo fornire ai docenti. Però parlando con alcuni insegnanti, insomma, anche alla vigilia di questa intervista, con insomma, persone che sono coinvolte in questo mondo della scuola e dell'alternanza scuola-lavoro, Ministro, viene fuori che spesso gli insegnanti, le scuole, i presidi non sanno bene da che parte girarsi, perché al di là di queste linee guida, allora, possibile che per esempio gli uffici territoriali scolastici possano essere, gliela butto lì, una soluzione, no, questo problema? Guardi, a rinforzare questi uffici che sono stati spolpati negli anni dalla spending review, da una serie di cose. Come si fa a rivitalizzare questi? Cosa ho già fatto, che forse è meglio. Che è questo? Noi abbiamo già fatto un accordo con l'ANPAL, cioè quella parte del Ministero del Lavoro che ha delle competenze per una qualità attiva sul mercato del lavoro, e abbiamo concordato 1000 tutor preparati su alternanza scuola-lavoro che abbiamo messo e che mettiamo nel territorio. Cosa servono questi tutor? Esattamente per qualificare i progetti di alternanza scuola-lavoro tra la scuola e chi accoglie i ragazzi, perché questo facilita, quindi competenze specifiche preparate in modo specifico e approfondito su alternanza scuola-lavoro. Questa è la prima cosa già fatta. Seconda cosa già fatta è l'incontro con l'insieme delle rappresentanze del mondo del lavoro, anzi io lo chiamo dell'economia reale perché vale per gli enti locali, come dicevamo, non c'è solo alternanza scuola-lavoro nelle imprese, diciamo, produttive, quindi un lavoro anche con loro, con i responsabili delle filiere di accoglienza, per dire loro che quello che devono fornire sono competenze formative. Guardi, questa è la cosa più complessa, come giustamente dicono i ragazzi, e come diceva anche lei, perché sì, la comprensione è che chi accoglie, cioè quindi chi si rende disponibile ad accogliere i ragazzi in alternanza, deve sapere che deve fornire. Ma queste, diciamo, formazione, sono non soltanto le premesse, bisogna lavora, capire che è formazione, benissimo, però poi è come si bisogna avere implementa. Le persone che sono in grado di spiegare ai ragazzi i processi. Assolutamente, però è stato detto che anche sulle aziende, per esempio, c'è difficoltà a reperirle. Qualcuno dice che si pensa di pagare le aziende, questo è escluso. Questo non c'entra niente, non c'entra niente. Però mi scusi, una delle questioni portate in piazza è il fatto dell'accordo con McDonald's. Quello che ci chiediamo è vecchio, di un anno e mezzo fa, che è già stato superato, ascolti. È superato, allora, però noi ci chiediamo quali sono i saperi del lavoro, le competenze formative di McDonald's. Ma, per esempio, il fatto di una rete internazionale, come si organizza un rapporto tra progettazione, acquisizione di materie prime, di che tipo, qualitative, sostenibili, e la distribuzione internazionale. Però se si finisce a friggere le patatine... È quello sbagliato. Ah, perfetto. Quella è la mi posso permettere, c'è sempre una differenza tra una struttura del lavoro organizzata che va spiegata su che mercato si sviluppa, quali sono le differenze di mercato, quindi è un'acquisizione di competenze, compreso anche cosa vuol dire risolvere un problema che si determina, quindi sono acquisizioni che sono tipicamente dentro all'insieme dei mondi. Quindi fare friggere le patatine non va bene, questo possiamo dire, certo, il ministro dice certo, così come anche bene fare le fotocopie spesso. Infatti, certo. Certo. Però la cosa che mi chiedo è, nel momento che c'è un accordo con McDonald's, dove devono andare questi ragazzi se non vanno nei punti? McDonald's possono anche vedere com'è organizzato, perché il tema è anche come ci si organizza. Io insisto, anche sul prodotto, come viene costruito il prodotto, da dove arriva quello che poi viene servito da McDonald's. McDonald's è una realtà. Ma del è giustissimo questo. Domanda, è certo che sì, ma infatti allora, il problema è che un conto se uno finisce dentro in un fast food, un conto se uno va alla sede di McDonald's e ci sono dei tutor che gli insegnano come si è creato McDonald's. No, questo però è anche qui, diciamo, un po' improprio. Vedere, conoscere e comprendere lo schema anche di lavoro pratico, che non vuol dire farlo, non vuol dire sostituirsi ai lavoratori che sono retribuiti. Però non crede che sia un po' difficile nel momento che uno finisce in un McDonald's in realtà pretendere che quelli di McDonald's gli spieghino come funziona la filiera? Allora, l'esempio di un anno e mezzo fa è caduto su McDonald's, ma se riguarda l'insieme dei progetti che i ragazzi fanno, McDonald's è un esempio, ma ce ne sono tanti. Certo. No, lo dico. Sì, tagliando la testa al top. Per esempio, oggi Libero scrive, no? Fai le fotocopie, prepari i caffè, incarti le uova bene, tutto aiuta a creare un'esperienza positiva o negativa. Stare in un posto di lavoro è indispensabile per capire come ti cambia la giornata da studente a dipendente. Condivide questo o è sbagliato? Allora, non condivido il fatto che loro qualifichino l'alternanza scuola-lavoro soltanto nel fare delle mansioni. Questo è sbagliato. Però se all'interno ci sono anche... Condivido il fatto che è giusto conoscere e partecipare non sostituendo lavoro a cosa significa un ambiente di lavoro, cosa significa, come è organizzato, tempi, regole e condizioni di un ambiente di lavoro. Questo è ovviamente alternate a scuola-lavoro, che non è solo una parte di conoscenza teorica che fai in classe, sennò potresti farlo solo in classe. Ma non dovrebbe essere legato al percorso di studi che uno sceglie, perché effettivamente se io voglio occuparmi... E adesso arriviamo sì. qui. Finisco la domanda. Quello che dico è che se io voglio occuparmi di gestione o di grande distribuzione è perfetto McDonald's, se io invece voglio fare però il filosofo anche lei fa un errore su questo. Ne faccio tantissimi. No, ne fa un errore di informazione, ma non un errore teorico. Allora, non è apprendistato. Io non mi stancherò mai di distinguere tra alternanza scuola-lavoro, quindi lo fai per acquisire competenze trasversali che acquisisci nell'insieme dei luoghi di lavoro. Altra cosa è apprendistato, che già tu selezioni dove vorresti andare a lavorare. Okay? Ah, quindi è un tratto distintivo il fatto che non sia lo studente a scegliere. No, questo può non essere automatico. Allora, quando può non essere, nel senso che ovviamente sei ad un percorso in cui il tuo territorio ti offre diverse possibilità. Poi, secondo me, può esserci una corrispondenza tra il fatto che sei nel liceo di Torino e alternanza scuola-lavoro, il docente, l'insegnante, valutandolo anche con i ragazzi, oltre che con l'opportunità che tu hai, lo fai nel Museo Egizio, perché corrisponde di più, diciamo, al tuo percorso di studio, oppure che lo fai dentro e con i dipartimenti delle università, che anche lì è un modello di organizzazione del lavoro. Il problema forse, Ministro, è che sono talmente tanti gli studenti che poi c'è questa difficoltà. Scusi, questa è un'altra domanda che le voglio fare. Sì. Nel caso ci sia, come sembra esserci, anche difficoltà a reperire aziende, come pensate di intervenire? Allora, se non avete detto incentivi, non ce ne possono essere. Si può intervenire su questo? No, allora, intanto c'è una mappatura che abbiamo fatto con le Camere di Commercio e l'offerta formativa. Sì. Nei territori, le devo dire onestamente, è molto ampia. Perché, ripeto, è sufficiente? Per adesso sì. Quindi non ci sono casi? No, possono esserci casi, però in genere sono casi che non conoscono, perché non conoscono l'offerta che c'è nel territorio. A questo stiamo sopperendo. Quindi aiuterete le scuole a conoscere questa offerta che voi dite è sufficiente, è ampia e sufficiente. Ci sono, guardi, in ogni territorio, perché spesso hanno anche affermato che ci sono territori in cui non ci sono aziende, perché la logica è quella che alternanza scuola-lavoro la fai soltanto nell'azienda produttiva, meccanica, tessile o chimica. Invece un territorio ti offre un comune, un'ASL, un'azienda di servizio, per dire che bisogna conoscere il territorio e vedere qual è. Senta, un'ultima cosa che le voglio chiedere su questo: a dicembre ci saranno gli stati generali dell'alternanza scuola-lavoro, per allora pensate di arrivare con qualche annuncio, qualche modifica o semplicemente questi piccoli aggiustamenti di cui lei ci sta parlando? No, allora intanto non sono piccoli aggiustamenti, perché far entrare 1.500.000 ragazzi in questo anno scolastico in tutta Italia in alternanza scuola-lavoro secondo me è una grande responsabilità. Lo stiamo facendo con tanti interventi che qualificano esattamente alternanza. Perché ho scelto e ho proposto per il 16 di dicembre gli stati generali dell'alternanza scuola-lavoro? Perché lì chiamo a responsabilità sulla qualità, sulla verifica e sul controllo dei progetti di contenuto tutti i soggetti della rappresentanza dell'economia reale. Quindi non ci saranno annunci particolari, no, per allora. È un punto di responsabilità del paese. Senta, le faccio ascoltare. Sì, scusi, le faccio ascoltare. Abbiamo un ascoltatore. Sì, le faccio ascoltare un imprenditore, credo Giuseppe da Bergamo, che fa una domanda. Poi, insomma, tra qualche minuto la lasciamo andare. Non è che la teniamo in ostaggio tutta la mattina. Non il ministro problema. Fedeli, Giuseppe da Bergamo. Perché devo andare a festeggiare i 10 anni del Partito Democratico. Ah, vabbè. Allora, questo si può anche rimandare, visto il clima con Prodi dice che è un lutto. La liberiamo entro gli 11. La liberiamo entro il compleanno degli 11 anni. Allora, Giuseppe, l'ascoltatore, vai. Sì, buongiorno. Io volevo raccontare molto brevemente la nostra esperienza, che è molto in linea con quello che diceva il ministro poco fa. Noi abbiamo un piccolo gruppo di aziende, operiamo nel settore dei servizi. Abbiamo toccato due tipi di esperienza. La scuola ci ha mandato come un pacco postale degli stagisti in un caso. In un altro caso la scuola ha accompagnato lo stagista con un tutor che è venuto in azienda, che ha concordato con noi un preciso piano e ha accompagnato i ragazzi. Tra l'altro abbiamo avuto esperienze dove dopo questi stage formativi questi tre ragazzi sono stati assunti. Due in un'azienda e una in un'altra azienda. Stage però è una cosa diversa, Giuseppe. Qual è la domanda invece sull'alternanza? Se vuoi fare una domanda al ministro sull'alternanza scuola-lavoro. No, la domanda è rispetto al tema dell'alternanza scuola-lavoro, il ministro come vede la figura del tutor non solamente aziendale ma scolastico? Eccolo qua, ministro, velocemente. È fondamentale. Sì. Noi abbiamo i tutor esattamente dentro la scuola, che sono quelli che devono, come giustamente dice l'ascoltatore, devono accompagnare, costruire prima che i ragazzi vanno in alternanza con l'azienda, con chi deve accogliere, la qualità del progetto formativo. Sono fondamentali, figure decisive. Bene. Sia i tutor scolastici, sia, come dicevo prima, i nuovi tutor che mettiamo nel territorio. Questo corrisponde anche al fatto di aiutare le scuole a trovare i soggetti che accolgono i ragazzi e qualificare i progetti. Ok. Senta, altre due o tre curiosità prima di salutarla, che non riguardano necessariamente l'alternanza scuola-lavoro. Sulla questione delle fake news, cioè, ci sono alcuni progetti, alcune scuole si stanno mobilitando, è l'ennesimo tema sul quale la scuola viene interpellata. Il Ministero sostiene questi progetti fatti con alcuni editori, per esempio in Puglia, alla Terza, ma ieri c'è stato un incontro anche addirittura con Tim Cook della Apple. Su questo il Ministero si sta muovendo? Assolutamente sì, noi stiamo facendo diverse cose su questo piano. La prima è proprio l'educazione digitale, che vuol dire insegnare ai ragazzi a come si sta nel digitale e a dare strumenti a loro di distinzione tra la notizia e la fake news, e questo è un primo elemento. Quello a cui lei fa riferimento è questa sperimentazione di questi progetti che facciamo in tre città, Torino, Roma e Bari, con l'editore La Terza, che è il progetto che si chiama Buon Senso, e questo è fondamentale per non far bloccare i ragazzi sul vece senso comune che in genere mette paura, per insegnare ai ragazzi ad approfondire, a risalire alle fonti, cioè all'autorevolezza e alla profondità delle fonti, anziché fermarsi alla prima notizia, al primo titolo che trovano in rete. Ma sono corsi, approfondimenti, sono molto extracurriculari? Sono offerte formative extracurriculari, ovviamente adesso. Ma la cosa importante è che i ragazzi dovranno attivarsi, e mettiamo loro a disposizione molte competenze, molte persone, oltre che molte fonti che approfondiscono esattamente i temi che loro vogliono affrontare. Guardi, questa è una cosa a cui io tengo particolarmente, perché poi alla fine di questo loro percorso, attraverso saggi brevi, reportage, dibattiti, video spettacolo, perché si sono messi a disposizione anche con diversi linguaggi autorevoli persone, da quelli del cinema a quelli del teatro, e considero questo un elemento per aiutare i ragazzi ad approfondire. Bene, senta, però questa questione delle fake news, cioè delle notizie false, insomma qualche modo di riuscire a distinguere tra notizie e bufale, è importante, è uno dei, come dire, un po' l'ultimo dei temi che si aggiungono alle cose che si chiedono alla scuola, di fare, di occuparsi, dal bullismo all'educazione stradale, eccetera eccetera. Su questa questione si può dare una sistematizzazione, si può tornare, come qualcuno auspica, a per esempio a un'educazione civica che sia materia in qualche modo curriculare, cioè rafforzare questa previsione che io c'è sono da Ministro Gelmini in avanti. Sì, io sono molto d'accordo, si chiama quello che è stato introdotto in modo anche allora sperimentare dalla Ministra Gelmini, cittadinanza e Costituzione. Adesso io lo sto molto implementando di contenuti, di indicazioni nazionali, perché deve esattamente diventare materia effettiva di conoscenza e di competenza. Ma diventa anche una cattedra vera e propria, diventare anche una cattedra vera e propria. Ma ci sono già i docenti che fanno questo, perché sono affidati ai docenti di storia. Il tema è l'implementazione dei contenuti. Però sembra materia. Che lasciare così non ai docenti di storia possa essere un po', guardi, facoltativo, allora, non strutturato. No? Invece le tematiche sono legalità, costituzione, bullismo, eccetera. Certo. Però guardi, intanto queste sono competenze e attenzioni, per esempio sul bullismo, per contrastarlo, che dovrebbero avere tutti i docenti di ogni materia, perché il bullismo tu devi avere strumenti per cogliere cosa sta avvenendo, magari in qualunque ora di lezione, e questo è un primo tema. Però su quello che lei dice, che mi chiedono anche i ragazzi giovani, noi stiamo implementando le indicazioni nazionali per rendere più cogente da un punto di vista descrittivo i contenuti di quello che le dicevo prima, cittadinanza e costituzione, perché la sensazione che si ha a volte è che sia dispersa in tante, diciamo, attività non sempre svolte in maniera obbligatoria. Ha assolutamente ragione, però tenga sempre conto che c'è l'autonomia scolastica, sì, l'autonomia dell'insegnamento, e ci sono le indicazioni nazionali. Le indicazioni nazionali sono quelle che fanno il curricula strutturale delle ore, ovviamente, diciamo, di percorso che devono fare obbligatoriamente. Quindi le su ragazze, questo ragazzi, solco un rafforzamento dell'educazione, questo è possibile. Assolutamente fondamentale. La ringraziamo, Ministro Fedeli, grazie. Buon sabato. Grazie per essere stata con noi. Sono le 8:42, c'è la pubblicità, poi il traffico. Ci rivediamo domani direttamente. No, abbiamo ancora qualche minuto di diretta. A tra poco 800 24 00 24, se volete intervenire sulla questione alternanza scuola-lavoro, se volete giocare con noi sul gioco della settimana, Carlo, che abbiamo lanciato, Di Battista sbaglia piazza. I vostri grandi errori, il momento in cui avete cannato di brutto. 800 24 00 24, tra poco. Frutta, la natura di prima mano. Vi presenta Si può fare. Cronache da un paese migliore. L'alternanza scuola-lavoro, intesa come la intende il ministro, è un grande costo per un'azienda, troppo per la mia. Ciao, ci scrive così un ascoltatore su WhatsApp. E invece ci scrive Alberto Barberis, presidente Giovani Imprenditori Unione Industriale di Torino, che dice: proprio ora sto andando a fare attività di alternanza scuola-lavoro a 250 studenti. Da noi mi pare funzioni. Bene, Piero dalla provincia di Varese, buongiorno, benvenuto. Buongiorno a voi. Buongiorno. Volevo dire, sì, ero in una commissione d'esame, muore sì, la mamma della mia vicina e nessuno può andare. Allora mi organizzo e luglio un caldo becco e mi fiondo alle 2 sotto il sole, arrivo a un funerale, vado, mi aggrego sperando di trovare un familiare per fare le condoglianze e poi ritornare, credo di aver già capito. Credo a un certo punto il sacerdote dice: preghiamo per l'anima buona del signor Giovanni. Così io avevo capito che avevo sbagliato completamente funerale. Quindi non era gioia. Beh, sbagliare funerale mi sembra altissima classifica per le figuracce e per gli errori. Siamo partiti dalla piazza di Di Battista siamo arrivati al funerale del signor Giovanni. Quello del gigolò secondo me era un po' inventata, io un po' ricostruita, perché quello che è andato a casa di una e poi si è accorto di aver sbagliato e lei anche perché io adesso mi aspetto che ci sia lei che chiami e dica: io una volta ho chiamato uno gigolò, quello è arrivato e gli ho detto no, io non avevo chiamato nessuno, e così ha risparmiato i soldi. Va bene, allora è il momento di chiudere con un'altra notizia, che è questa: un accordo per rivitalizzare le edicole che, inutile negarlo, sono in crisi con tante cose, da pagare le multe a ritirare pacchi. Sai, quando c'è un pacco che non sai dove portare a casa, non la porteria. È un servizio fondamentale quello oggi, che è tutto col delivery. Armando Abbiati, presidente del Sindacato Nazionale Autonomo Giornalai, benvenuto. Grazie, buongiorno. Allora abbiamo buongiorno. Poco tempo perché la ministra ci ha mangiato spazio. Che cosa prevede questo accordo per cui noi facciamo il tifo? Potrebbe essere una buona notizia, perché le edicole, chi non ha un'edicola vicino casa e teme il giorno in cui l'edicolante andrà in pensione, perché si sa, no? Spesso poi l'edicola chiude e non arriva nessuno. E non riapre più. Che certo, dice? Questo accordo cosa prevede nello specifico? Purtroppo non sono in grado di dirglielo, perché Anci e Fieghe non hanno ancora convocato le organizzioni sindacali dei rivenditori. Questa però è una cosa un po' curiosa, che insomma, cioè, che speriamo che venga, come dire, superato questo piccolo problema. Non vi hanno chiesto un parere. Però come idea di fondo è buona, tutto quello che porta reddito al punto vendita e vicino al cliente, al banco vendita dei giornali, è una cosa positiva. Siamo favorevoli, tutto quello che offre servizi all'utente è meglio ancora. Di cosa si parla? Pagare le multe, per esempio? Si va a pagare tutti i bollettini, multe, addirittura qualcuno paga, dice del 7,30, moduli anche delle tasse, per cui va benissimo. Consulenze matrimoniali, consulenze... No, scherzando. Questo non lo so. Mentre invece la consegna di pacchettini, anche quella va bene, con misure ovviamente idonee, che si possono tenere nel luogo, quello che è chiosco o negozio, ma insomma i chioschi sono piccolini, per cui non si può tenere molti pacchi, ma tutto quello che è servizio all'utente va benissimo. Quindi dice che è difficile questa questione di farsi consegnare i pacchi in edicola, perché le edicole sono piccole? No, bisogna limitare le dimensioni. Prenotare una visita medica, insomma, sono tante cose, non tutte diverse, non è così semplice. No, è facile, voglio dire attenti, è anche stimolante, e sta bene a tutto. Adesso bisogna, appunto, ripeto, mi sembra di aver poche notizie da dare perché non sono stato convocato, ma l'idea è ottima. Basta. Dopodiché mancherebbe l'ultima cosa, di informatizzare un po' le edicole, che tutte le edicole fossero informatizzate con i centri. Certo. Ma anche perché sennò diventa difficile pagare delle multe, per esempio. Certo, se non siete connessi a una qualche rete digitale. Ma se i giornali si vendono sempre meno, su cosa si reggono oggi le edicole, Armando? Beh, oggi si reggono ancora su cinquantenne, da cinquantenne in poi, o i bambini. Per quanto si tratta di prodotto editoriale, i bambini che salvano i bambini, perché è vero, questo conferma, certo, che dopo la messa vai a prendere le figurine e ti tirano per la giacchetta. Diciamo che i nonni sono validi per leggere il quotidiano e per fare i regali piccoli. I migliori alleati delle edicole sono i nonni. Grazie, Armando Abbiati del SNAG. Dobbiamo chiudere tutto. Una puntata monopolizzata dalla presenza del ministro Fedeli. E ne siamo contenti. Noi ci risentiamo domani dopo il GR delle 8, con Si può fare fino alle 10. Un ringraziamento a chi ha realizzato insieme a noi questo programma, cioè cari ascoltatori voi, ma soprattutto Andrea Piana, Claudia Schettone e Carmelo Luscella in regia. Ciao da Alessio Maurizi. E ciao da Carlo Gabardini. A domani.